ovunque andrai, tu sarai mia, dovunque andrò sarò tuo. Ti perderai, mi perderò, mi pentirò, capirai. Mi cercherai tra volti bui e accanto a te mi vedrai. Soffrontassi, non sarò io, ma tu vedrai gli occhi miei. Mi chiamerai, mi volterò, e anche se la voce è la tua, non sarai tu dietro di me, ma io vedrò gli occhi tuoi. Quello che pensi è un po' anche mio, quello che sogno è far tuo. Ti coprirai, mi scalderò, ti ammalerai, tossirò. Stringimi forte, amore mio. Amami sempre a modo tuo. Se questo amore è una notte stellata, ogni battito al cuore è una stella cometa, ogni storia che nasce è una stella che muore, quella stella peccato e la storia finisce. Mi scorderai, ti scorderò, scomparirai, sparirò. Ma quando il sole ci sveglierà col primo odor di caffè, mi verserai, ti verserò, ti scotterai, brucerò.